di un ragazzo per bene che mostrava tutte quante le sue pene, la mia sincerità per un male la sua verginità. Che ne sai di un amore israelita, di due occhi sbarrati che mi han detto bugiardo e finito.